Ore 9.30, sagrato della chiesa di San Pio X, piazza della Balduina. Gli amici e i tifosi venuti per Gabriele hanno iniziato qui la loro giornata. La piazza si è riempita di ragazzi con le sciarpe della Lazio, della Roma e di molte altre squadre. Diciamo, io sono tifoso della Roma, però insomma penso che è importante partecipare a una cosa, diciamo così, insomma, che è un fatto vero. Insomma, la gente deve capire che queste cose, insomma, sono un po'... bisogna evitarle, diciamo. Durante tutto il funerale, nonostante la pioggia, la piazza è rimasta gremita. All'uscita del feretro i cori, poi un centinaio di tifosi si sono diretti verso lo stadio, sfilando sotto la curva nord dell'Olimpico. Non ci sono stati disordini. Così è stato ricordato Gabriele e anche con una fiaccolata partita alle 17 da piazza Frigeri, quella in cui il padre del ragazzo ha il suo negozio. Hanno partecipato circa 200 persone, sono passati davanti a casa di Gabriele, la mamma ha salutato dalla finestra. Francesca Malaguti, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma.